3-4 metri di vetro, l'ho legata una canna, l'ho buttata con un piombo e un amo e un pezzo di... non ho trovato vermi, ci ho messo un pezzo di lumacone, l'ho tagliato in due pezzi e l'ho innescato. Oh, neanche calata, stavo preparando l'altra lenza e il mio amico e dice, guarda, sta toccando. Io sono convinto che mi stai prendendo in giro, invece no, tira su e c'era l'anguilla attaccata. Non è possibile, neanche un minuto. È così, quello è mangiato di tutto. Anche io lo stesso, quando non avevo esca mettevo lumachine, cercavo le lumache e ce le mettevo, eppure le prendevi. Sì, poi ha fatto uno scavo, questo dell'impresa, quindi abbiamo recuperato un po' di tiringoni, un po' di lombrichi, e ne ho preso altri due. Un paio li ho persi perché non è che sono sempre lì, quindi andavo ogni tanto a controllarle. Due o tre volte ho trovato la lenza imbrogliata alle canne, come ho tirato ho perso tutto. Tu ti devi preparare un filaccione che vada da una riva all'altra, che vada. Gli metti ami, ne metti 20, 30, ne metti di ami, poi il filaccione gli metti un palo per un palo da una parte, un palo dall'altro, per ferro lo leghi, prima di andartene, dopo le 8 ore, vai tranquillo, vai e la trovi tutta attaccata. Ma questo è, ripeto, è un rigagno, lo mio. Sarà un metro di larghezza, sotto il ponte un po' si allarga, infatti io le ho buttate lì, anche se non si può, sotto il ponte non si può pescare. Ehi, cazzo, non si può pescare, ma se c'è, vai tranquillo che chiami le riempie quello lì, perché io al fiume Sidisi qua a Sozzo, tanti anni fa, ci mettevamo i filaccioni, andavamo la sera, lo piazzavo, la mattina andavo e portavo via le anguille, è belle. Aspetta che ti mando la foto, mi. Se ci sono, ne conviene approfittarle. È arrivata? Sì. Questa è la prima che... appena messo, vedi c'è quella specie di ringhiera, l'avevo legata lì la lenza, appena buttata. Cavolo, è bellina, Ne ho preso di più grosse, dai, però questa è bellina. Ne ho preso un'altra uguale a quella e poi un'altra appena più piccola. Aspetta, se ce ne sono così grandi, sono buone, questa è a rosso. Come l'hai vista mia suocera, me l'ha già prenotata. Comunque, dai, questo ragazzo era un bel contento, questo lavora nell'impresa, dai. Cazzo, perché lavora con voi? No, è una ditta esterna, sono siciliani, sono bravi ragazzi, però. Era contentissimo, dice, contentissimo, il primo pesce che prendo, dice, nella mia vita, la prima anguilla, dai. Dalla prima si comincia. Questo, siccome tipo gli piace scherzare, questo mi sta prendendo in giro, detto, è impossibile, appena buttato gli ha attaccato, lui che invece davvero. Già, è bellina. No, lì ci sono, poi lo so, siccome ogni tanto andiamo a scortare anche l'impresa che pulisce l'alveo del fiume, no? Con due trattori, uno da una parte, uno dall'altra, col braccio lungo, e tagliano tutte le canne e il giunco che c'è in mezzo. E ogni tanto che si incastra, loro tirano fuori, e tanto ne esce anche qualche anguilla fuori. Aspetta, solo anguille ci sono, non c'è altro niente. E lì ho preso anche qualche anno fa delle tinche, è pieno di mugi, ma i mugi difficilmente mangia. I mugi non li devi fare, una pastetta, farina, un uovo, se c'hai qualcosettina di quella roba, ti posso dire, tipo acciughe, glielo metti dentro, gli fai la pastettina, gli metti un pezzo ogni tanto nell'amo e l'ancoretta ci vuole, perché lui il mucino succhia, tu quando lo vedi che la galleggiante sta passando, tu tiri e a lui lo becchi. Non so, in acqua dolce, ma la sorte sono infiniti, sono. In mare li prendo più facilmente. Col galleggiante piombato metto due ami piccolini attaccati al rosario, uno dietro l'altro, e gli metto dei fiocchi di pane, leggeri leggeri. Prima pasturo, poi butto in mezzo dove c'è la pastura e così quando facciamo il vivo per pescare col vivo, dai. Sì. E beh, il mare è tutto fatto un'altra cosa al fiume. Sì, in acqua dolce non l'ho mai preso. Ho visto quelli che pescano, come dici tu, col pane, mettono un sacco di ami, fanno la strappo, ma... Però non l'ho mai preso così. No, io mettevo solo un'ancoretta, mettevo in fondo, un'ancoretta. E sopra più in alto, una roba di 2-3 centimetri, più in alto mettevo l'amo con la pazzetta. In modo che lui, quando mangiava, si abbassava, quando si muoveva il galleggiante, sapevo già che c'era lì, mangiando, tiravo e con la coletta lo agganciavo. E a strappo proprio, sì, no, già l'ho visto, ma la tecnica già la conosco. E vabbè, dai. Però oggi mi sono divertito, giornata piena. Vedi, anche se si lavora, c'è anche il lato positivo, L'adrenalina, come si dice? Hola. Più bassi di così non si può, va. Come? Più bassi? No, dico, più bassi di così non si può, le stazionarie. Ah, io stesso, adesso un giorno... butto giù il palo, l'antenna giù e me la controllo perché mi si stanno alzando le a 1 e 2 già sono alzate le stazionarie, prima non ne avevo niente. È una pulitina, dai, una sistemata, un'ingrassata e la rimetti in sesto? Sì. No, quando sono senza linea letto non è una stazionaria, rimane ferma. Quando attacco gli metto un po' di potenza, allora sale. E prima non saliva, perché è stata tarata con la potenza, l'antenna. Adesso mi senti, Franco? Capita se ti sento. Buonasera. No, buonasera. Ho acceso adesso perché stavo cenando e vi ho lasciato dalla macchina che non mi sentivi per quello. Niente, mi facendo quattro chiacchiere ancora. Ti stavo aspettando. Voi due ci siete, non è entrato nessun altro. Poco fa ci abbiamo fatto con uno, abbiamo fatto quattro chiacchiere fuori e poi basta, non ne ho fatto più, non ne ho fatto, come non mi interessava. Niente, avanti Fra. Come dice Franco, un paio di exit abbiamo fatto così, con Cuneo, Genova, uno dalla Francia, che non ricordo più il nome, boh. Si è salutato e poi la ciccia, dai. Quindi hai mangiato con l'imbuto? Diciamo di sì, dai, ma ho trovato pronto per quello. A quest'ora ho trovato pronto, gli altri hanno già mangiato e digerito. Niente, sì, vuol dire che c'era un po' di propagazione, sì, perché quello di Genova, quando ha chiamato, l'ho sentito io anche abbastanza bene, ed ero lì a Predanieta, poi però è scomparso. I giorni scorsi lo stesso io, anche stamattina ho parlato con Malaga, in questo canale, sul 10, in AM. Sì, adesso sicuramente ti sentivano in propagazione, quindi facevano chiamata, Sì, questi giorni sta arrivando parecchia gente, anche io ho fatto qualche collegamento anche un po' più lontano. Comunque, su mani, dai. Mi accontento anche se non ho antenna sul tetto, qualcuno mi ascolta. Che esci bene, perché io ti sentivo anche ad Alghero tranquillamente. Ma che strano, come fanno tu a sentirmi e gli altri no? Perché per me è proprio negativo Alghero, No, non la vedo proprio. L'aeroporto è diverso, dall'aeroporto è tutto, diciamo, pianeggiante, non sei dentro Alghero, ci vogliono ancora 4-5 chilometri e quindi io poi quando parlo inizio, diciamo, a tornare indietro verso Sassari, però la vostra conversazione io l'ho seguita, l'ho sentita tutto, Franco da Sorso io non l'ho perso un attimo e anche quando siete passati poi in banda laterale sentivo lo sblatterio sotto, capito, poi quando siete rientrati allora mi ero avvicinato e quindi mi avete sentito lì. Sì, sicuramente. L'altro giorno passando nella strada vecchia, all'uscita di Olmedo, ho visto che c'è una villetta, dopo il cimitero sulla destra, c'è una villetta dove dove c'è il ristorante di Sili, che mi sembra più o meno quella zona lì, e c'ha due antenne, una 5 ottavi per la 27 e poi un'altra deve essere sulle altre bande, sulle U e sulle V. Ti è mai capitato di vederla? No, negativo, perché lì da Olmedo non ci passo quasi mai, io, capito, nella strada vecchia. Io solitamente passo dove dalla stradina dell'aeroporto, dove c'è la testata nord dell'aeroporto, che poi vai dove c'è l'agriturismo, com'è che si chiama, sul rettilineo dove c'è la pista di go-kart, il rifornitore, poi passi davanti alle vigne di Delogu, capito? O faccio quello oppure faccio l'altra, quella che parte di fronte dall'aeroporto, tiri dritto ed esci a Santa Maria, come si chiama, Sella e Mosca. Che c'è lì, cosa? Samandra? Esatto, o passo da Samandra oppure passo invece dal rettilineo che poi mi fa uscire dove c'è Sella e Mosca, capito? E poi trovi la zona San Marco, la zona industriale. Sì, conosco la zona, dai. Avanti Franco. Ehi capo, hai visto quelle case che ci sono sulla destra quando tu parti dall'aeroporto per fare la strada per andare verso Sella e Mosca? L'ultima casa a destra, prima del ponte per uscire da lì, per salire verso la strada verso Sassari, quella è la casa di mia sorella. Capito, sì, ho capito in che zona è. Se non sbaglio, quella zona si chiama, dopo Sella e Mosca, ci aveva un nome, adesso non mi viene, poi te lo dico, Giancafarrà è prima, lì era un altro nome, non mi viene adesso. San Quirico. Carlo, Santa Regala. Ecco, bravo, Santa Regala, sì, perché ci abita anche un mio amico che lavora all'aeroporto, un poliziotto lì a Santa Regala. Capo, quella casa lì è di mia sorella, abitano lì loro, abitano. Ci sono belle case con dei bei terreni, capito, si sta bene. Più avanti lì, un po' prima ci abita anche un mio collega, casa che si è fatto nuova. Capo, sì, quelli sono terreni dell'Etefas, erano terreni dell'Etefas, poi sono stati tutti riscattati e adesso sono diventati proprietari tutti quelli che c'erano, i padroni là, quelli che c'erano. E la stessa cosa, era tutto bello, è uguale identica. Sì, lo so, perché l'Etfas ne aveva in ogni luogo, anche a Bonorva, nel comune di Bonorva c'è una zona in campagna che si chiama La Riforma, così l'avevano chiamata perché avevano fatto lì la riforma agraria, e avevano tutte case dell'Etfas, dove c'era la casa bellina con tutto l'attrezzamento di terreno, ma almeno 3-4 ettari c'erano in alcuni terreni con la casa. E poi quelle le hanno tutte riscattate, sono diventate di proprietà, capito? E sono anche belle case, Esatto, sì, ne ho visto anche che molte le hanno ristrutturate e hanno un sacco di metratura pure. Il podere si chiama, insieme al terreno, e sono quasi 10 ettari, 9 ettari e 6 mi sembra, una cosa del genere. Cavolo, è enorme. Sì, perché ce l'abbiamo noi, così ce l'abbiamo, perché mio padre era un assegnatario dell'Etefas, era tutto bello. E ci abbiamo noi 9 ettari, sì, mi sembra 7, una cosa del genere. Ma caspita, è parecchio. Non la conosco quelle case, avevo degli amici che dalla parte dei genitori l'hanno ereditata, ma mi ricordo, abbiamo fatto qualche spuntino d'estate, all'interno c'era un fresco bestiale. Ehi capo, no, io sono muri fatti in trachitemi. Allora come questa casa dove abito io adesso, anche qui è tutto in trachite. Infatti, quelle sono belle, se no sono buoni, altro dei cantoni. Avanti capo. Cioè, dove abito io sono cantoni di quelli bianchi, di tuffo. No, qua sono un muro pieno da 60, anche dentro casa, tre mesi la maggior parte sono grossi, da 60 centimetri. Ho capito, sì, i palazzi di un tempo erano così. Io ci sono nato in case con i muri così da 60 e passa. Dove sei nato, Carlo? Sono nato a Bonorva, noi avevamo una casa colonica, grande, avevamo più di 200 ettari di terreno, vigna, eccetera, avevamo un'azienda, capito, con silos, mungitrici, quindi io sono l'unico della famiglia che sono nato là. Tutti i miei fratelli sono nati a Sassari, più grandi di me, io ero più piccolo, sono nato a Bonolva. Adesso avete venduto tutto? Sì, sì, poi alla fine abbiamo venduto tutto, tutti i miei fratelli, ci eravamo trasferiti tutti a Sassari perché mia madre era di Sassari, capito? Solo mio padre era di Bonorva, di quelle parti là, quindi avevo i nonni là, capito? Io per non sbagliare ho fatto moglie e voi dei paesi tuoi, quindi c'è anche la moglie che è di Bonorva. Hai visto? Però abita a Sassari. Sì, noi abitiamo a Sassari da quando ci siamo sposati poi. Sì, sì, avanti pranzo. Capo, così ho fatto io, da quando mi sono sposato mi sono venuta a Sorso. No, anche la mia è in zona, io abitavo a Villa Gorizia, mia moglie di Le Punti, quindi è un paio di chilometri, dai. Tu, l'unico sei tu che sei vicinissimo. Invece io da tutto quella qua me ne sono dovuto ripatriare. Tutto Bella, ci abita un mio ex collega, era falegname prima, da noi qui in azienda. E chi era? Si chiama Leonardo, il cognome non so se dirlo, dai. Intanto l'avevo già usato, mica lo conosco un po'. Sì, lo so, vabbè, ma se non ti ricordi il nome, Leonardo, vuol dire che no. Lui abitava a Olmedo prima, adesso, dopo che è andato in pensione si è fatto la casa lì, a Tutubella, e abita lì già tanti anni. E allora è arrivato dopo di me, dopo me lo sono nato io. Adesso sarà in pensione, boh, una decina d'anni sarà in pensione. Sei una decina d'anni, io ci manco 43-44 anni da lì. No, negativo. Molto dopo, è una cosa recente, dai. Avanti Carlo, io tra un po' chiudo perché domani mi alzo presto. Tu sicuramente sei in riposo domani, Carlo. No, domani c'ho tutto il giorno libero e poi c'ho la notte dalle 21 alle 5 del mattino. E poi sono libero domenica e lunedì. Vabbè, io domani fino alle 5, alle 6, dai. Poi una bella doccia, mi preparo. E poi siamo di compleanno, che c'è un'amica che festeggia il traguardo dei 50 anni, e quindi festeggiamo, dai. Quello è un grande traguardo, e vuole festeggiarlo. Comunque, mi stavi dicendo che hai visto delle antenne lì all'uscita da Olmedo, nella strada vecchia. No, sicuramente qualche radioamatore che magari non entra su queste di frequenze. Qualche giorno fa ho collegato l'Isola Rossa a Trinità d'Agulto, no, questo qui era tra l'Isola Rossa e Trinità, si chiama Enrico, però credo che sia un radioamatore. L'ho beccato in banda laterale e stava parlando con, aspetta chi era, di Monnannaro, aspetta com'è che si chiama, vabbè, uno di Monnannaro, Franco, no, Fabio, e poi uno di Ozzeri, capito, Giovanni, sono riuscito a sentirli anche io in banda laterale, questo di Ozzeri e l'altro di Monnannaro. Ci siamo trattenuti così a fare una chiacchierata una mezz'ora, e poi questo qua mi ha detto, questo Enrico di Trinità mi ha detto che sarebbe entrato una sera a fare quattro chiacchiere in AM, ha detto guarda, noi siamo sempre sul 10, sul 27.075 e siamo in AM, però ho detto se fai chiamata, ho detto già ci trovi più o meno la sera intorno alle 7, alle 8, a volte anche dopo cena, tipo stasera, però non, questi giorni poi non l'ho più sentito. No vabbè, io difficilmente riuscirò ad ascoltarlo, magari tu e Franco sicuramente, perché anche Franco magari è aperto, non lo so. Tu c'hai una bella posizione, lì ti abbracci varie zone, dai. Dai, vi lascio, un abbraccio, una buonanotte a tutti e due, e arrivederci alle prossime. Avanti Franco con la buonanotte. Ehi capo, ciao, ci sentiamo, dai, fra, buon tutto, dai, buon lavoro per domani, come lo fai, buon tutto, e divertiti. Avanti Carlo. Ciao, buonanotte, buona ricarica, ci risentiamo sicuramente in queste frequenze, dai, buonanotte, vai fra. Ehi capo, Carlo, io abbraccio tutta la... quella zona la abbraccio tutta, sino a Santa Teresa di Gallura, e anche a Iaccio, e arrivo bene, e perché ce l'ho tutto libero, tutto via mare. Eh sì, sì, tu sei, diciamo, tutto aperto là, quella zona. E niente, io qualche volta, quando non c'è troppo QRM, diciamo, riesco a sentire anche verso quelle zone lì, capito? Trinità, Valle Doria, anche camionisti di passaggio, eccetera, più di una volta ci sono riuscito a parlare. Purtroppo in questo periodo però a volte sale la propagazione, QRM, quindi non senti più i segnali bassi. Però a volte la mattina, ma questo Enrico di Coso, dell'Isola Rossa, mi ha detto che lui la mattina solitamente va sui 30-40 metri, per quello io non gliel'ho chiesto, ma ho intuito che fosse qualche radioamatore, perché poi smonto le antenne, questa la metto di rado, eccetera, quindi parlava con cognizione di causa, capite? Per quello che ho capito che forse era qualche radioamatore, vai Fra. Sì, sicuramente era qualche radioamatore quello lì, perché io mi ricordo negli anni che furono, nel 90-95, noi parlavamo in diretta, parlavamo con la Iaccio, Santa Teresa di Gallura, da qua, l'antenna sì, è in alto adesso, però l'altra che c'avevo prima, sempre vicino, spostata di 5-6 metri, era al doppio di palo, perché adesso ne ho 6 metri e non ci sono tutti, perché due se li ha presi il muro, ma prima ne avevo 12 di metri, ne avevo fuori. Ho capito, io lo stesso quando ero ragazzo che vivevo a Bonorva, intorno avrò avuto 20 anni, così 18 anni, mi è venuta allora la passione della radio, eccetera, e lì avevo la casa grande, avevo un terrazzo enorme, avevo autocostruito un dipolo, capito? E tutte le sere, estate, inverno, in qualsiasi situazione anche meteorologica, io accendevo la radio di mattina, di sera, di notte, accendevo e parlavo con questo amico di Badesi, da Bonorva a Badesi, che è tutto da un'altra parte, evidentemente ero aperto come avevo messo l'antenna su quella direzione, e gli arrivavo Santiago 7-8 la Badesi, e lui altrettanto, anche a me mi arrivava così con un segnale sempre buono, ci sentivamo quasi tutte le sere, io rientravo tardi a volte, accendevo la radio, c'era sempre lui facendo chiamato, parlando con qualcun altro, e da là andavo però poi verso altre zone, Ozieri, Tireddu, tutta quella la zona del Meilogo, Tiesi, eccetera, arrivavo sino a Pozzo Maggiore, capito? Poi più in alto no, perché c'è tutto il monte lì, che è la salita di Campera, e non uscivi da Bonorra, non si va oltre quella zona. Capo, è evidente che si può, l'hai puntato bene, l'hai messo bene, l'hai messo. La zona era tutta libera, ce l'avevi libera per questa zona. Badesi da Bonorra mi sembra lontano, eppure se ci sono le antenne e sono puntate bene, magari senza QRM ci arrivi. Sì, no, io con Badesi non avevo, infatti dicevo che è strano, perché è veramente lontano Badesi, dicevo non lo so, vuol dire che io per esempio dal mio terrazzo vedevo tutto il monte, le montagne che ci sono verso Tempio, no? L'Imbara, tutta quella zona lì, arrivavo anche a Tempio, ma non andavo oltre, evidentemente lì c'era qualche corridoio dove riuscivo a passare, e ci parlavo tutti i giorni con questo di Badesi. Sì, ma prima non è come adesso, prima era diverso, si modulava diversamente, prima era più tranquillo, si parlava tutto in diretta, adesso se non c'è propagazione non riesce a parlare, l'atmosfera, il coso atmosferico ha girato. Ho capito, poi mi ricordo che si parlava solo in cose, in FM, in AM, era raro che ci andassimo, qualche volta nelle bande laterali, eccetera, però poi i collegamenti erano tutti in FM, magari uscivi anche con qualche watt in più, ma viaggiavi lontano, però non c'erano tutti i disturbi che ci sono adesso, è vero, quello sì, ma io ti sto parlando di più di 30 anni fa, eh. Sì, prima già era bello. Poco fa mi aveva detto Franco che mi stavi ascoltando fuori frequenza. Sì, quando forse hai cambiato radio, quindi quando noi siamo passati a un certo punto, hai detto passiamo in FM, tu sei passato in FM però non era centrata la frequenza, capito? E ti sentivo male. Poi è strano perché stavo parlando quello là in USB e Maestro mi ascoltava perfettamente, ero in frequenza proprio. Lui stava usando il CRT 6009, stava usando. Il microfono stava usando un tarlo più 3. Non è che ti sei dimenticato di cambiare selettore AM e banda laterale, AM FM e banda laterale, che magari sei passato con la radio sì in FM ma hai lasciato su SSB magari. Può darsi, perché me ne sono accorto dopo che l'ho schiacciato. Perché a volte capita anche a me quello, io c'ho un 747 di quelli da auto, ma l'ho piazzato qua e va bene. E molte volte mi dimentico e magari ero in banda laterale, poi passo in AM e non mi sentono bene, ed è per quello magari. Sì, probabile che era quello era allora, perché con quello là stavo parlando in banda laterale, stavo parlando. Caspita, mi arrivava 5.9, mi arrivava, e io lo stesso gli arrivavo 5.9, ma era una bella modulazione perfetta che ci aveva questo qua. Sì, con questa radiolina che ho io qua, diciamo, fa il suo dovere, perché con la piccola questione che gli avevo fatto, premi un pulsante insieme ad un altro e diciamo che aumenta in automatico e passa a 8 watt in AM e 13-15 watt in FM e un 18-20 watt in banda laterale, per cui a volte neanche lo uso il 747, capito? Però io quello che non mi aspettavo, che stavo usando il microfono questo qua, lo Shure, che mi ascoltasse così bene. Infatti mi ha detto, quando gli ho detto lo Shure, caspita, già lo credo che ci sta uscendo bene, c'è una bellissima radio. Sì, ma ti ho sentito che hai detto che hai una, come si chiama, una specie di adattatore che ti fa passare da un microfono all'altro, per dire c'hai un microfono a 4 poli e lo puoi inserire su una radio che ne so che ha un attacco microfono per sì, così fra. Allora, io ho l'MB+5 e l'MB+4. Cioè, mi sono fatto io gli spezzoni, gli adattatori, che posso usare sia il microfono a 4, posso usare in una radio a 4, a 4 poli, sia a 5 poli, me l'ho fatto, perché ho 3 lentilinkovi a 5, e me l'ho fatto anche a 5. E così adesso domani mi devo fare per lo Shure, me lo devo fare, in modo che posso usare anche il presidente Linco con lo Shure. Lo so, te lo stavo chiedendo perché io in questa radio che uso ho 6 poli, perché utilizzano quei microfoni che sono elettro, qualcosa del genere, capitano una sorta di alimentazione, eccetera. Quindi ci devi stare attento a non sbagliare i collegamenti, se no parte la radio, capito? Però sto cercando un adattatore che appunto mi dia la possibilità di utilizzare altri microfoni. L'MB+4 ce l'ho e gli ho messo uno spinotto da 6, però ovviamente ci ho collegato solo 4 fili, capito? E qua in questa radio lo posso inserire e funziona però come microfono normale, non prende l'amplificazione, capito? Ma già avrò un altro modo per usarlo quello. Anch'io mi sa che mi farò qualche spezzone così e provo in quel modo che mi stai dicendo tu. Carlo, ma sei attaccato? Aspetta, adesso sto uscendo, te lo dico subito, sì, sto uscendo con 40. Perché stai saturando adesso? Adesso abbasso così. così va meglio. Prova ancora un altro po'. 1, 2, 3, prova radio. Sì, forse ha migliorato, prova. Sì, forse c'erano troppi, magari siamo vicini e capito. Era così, l'ho lasciata così da stamattina forse, quindi non mi ero accorto. Capo, io l'ho spento adesso, vedi? Adesso sto uscendo con 10, 15 watt, 15 watt modulati, sto uscendo. E com'è adesso? Santiago 8 qua, se mi con picchi positivi mi arrivi. Adesso spengo anch'io, guarda, mentre sto parlando adesso spengo, e però porto su il regolatore della radio. E così dovrei essere, aspetta che passo questo livello, dovrei essere a 8-10 watt. Ehi capo, stai arrivando, lo stesso modo che sto arrivando io a te. Sto arrivando, 7-8 mi arrivi. Ecco, e come mai così tardi, signore? Ehi, ciao Roberto, faccio una chiacchierata. Mi stavo ascoltando perché ero da altre parti e ho tenuto un po' acceso qua, non ho sentito, stavi saturando di brutto comunque, qua arrivavi oltre 9,60 e Carlo saturava, troppo forte il segnale, gli toglieva la modulazione. Sì, lo so, me ne sono reso conto dopo, ciao Robè, perché stamattina ero agganciato, ti spiego perché, poi ho spento la radio, ho dimenticato il 747 acceso, però una di quelle prese smart che praticamente lo spegni col cellulare, stacchi corrente e si spegne l'alimentatore. Come sono rientrato acceso, automaticamente si è acceso anche il 747, quindi non ci avevo badato, quindi ho acceso la radio, stavo uscendo con un sacco di watt, ma così dovrebbe andare meglio, adesso c'ho solo 8 watt, quelli della radio. Sì, adesso va molto molto meglio, perché chi era Franco quello che ha parlato? Franco da Sorso, vai Franco per Roberto. Beh Roberto, dopo tanto ci sentiamo. Ho detto Franco? Ho detto dopo tanto ci risentiamo. Ah sì sì, ho detto, ci siamo pensato che si salutando, no? Ho detto cavolo, sono appena entrato. E beh Fra, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Okay. Beh, facci quattro chiacchiere così, c'era anche Franco Binario, poco fa c'era. E ci abbiamo fatto qualche chiacchierata anche fuori. Ma prima c'era la propagazione. E tu? E anche adesso mi però quello ti supera pure, se 9 qualche cosa, quasi 9,5, ecco qualche punto di propagazione ti ha scavalcato, comunque già ti ho tirato fuori bene, non c'è problema, no, è tutto a posto, dai. Sono più spesso in altre bande, ieri ci abbiamo fatto una bella chiacchierata a Sinatale, c'era Claudio, c'era Franco, chi c'era poi? Antonello, Antonio Momolo volevo dire, non Antonello, pure gli altri due, Natalino, Gianni, abbiamo fatto un po' tardino, dai, rispetto al solito, ci siamo un po' risentiti dopo tanto tempo, soprattutto a quest'ora normalmente non c'è mai nessuno, dai. Ok, di nuovo a te Carlo il Mike. Sì, hai ragione, molte volte anch'io accendo a quest'ora non c'è mai nessuno, magari provo a fare chiamata, eccetera, e poi provo a fare ascoltare da altre parti, magari poi in banda laterale, qualcuno lo becco sempre. Sì, io sono praticamente uscito alle 9 da lavoro e avevo la radio in macchina, quindi acceso, e li sentivo chiacchierare e tutti e due, c'era Franco a Sassari e Franco lui da Sorso, ma non mi sentivano perché c'era quel REM molto alto. Poi quando sono arrivato diciamo dopo Selle Mosca, così hanno iniziato a sentirmi e poi la cosa è proseguita sino a Sassari, poi io sono salito a cenare, ho riacceso qua e loro erano ancora a fare quattro chiacchiere, capito? Ecco perché siamo finiti così alle 10:30 di notte, per me è ancora presto. No, ma poi abbiamo fatto proprio in banda laterale, ha provato Claudio l'apparato il 9:20, io ho provato il 9:40, il 27 non l'avevo mai provato, ha detto che già va, funziona bene, magari non ti tira potenza, però gli è andato bene. Ma c'è anche Franco Binario? No, negativo, Franco Binario è chiuso perché domani mattina si deve alzare presto, si deve alzare. Riprendi Carlo un attimino che mi devo allontanare un secondo e mi devo prendere una pastiglia. Tranquillo, vai pure Fra. Niente, sì, no, Franco Binario ha chiuso perché domani mattina aveva il lavoro che lo attende, ha detto che aveva una giornata un po' impegnativa, poi c'è anche una festa, eccetera, e ha chiuso, ma loro evidentemente c'erano da parecchio, capito, in radio, quindi io stamattina sono entrato, anche poi andando via, quando stavo andando a lavoro, ho parlato con Natalino, stamattina c'era Antonio, insomma, qualcuno c'era, e poi niente, in questi giorni ho visto che già c'era un po' di attività qua da noi, c'era sempre qualcuno in radio, mattina, sera, bene o male, qualcuno si sta facendo. E ti volevo chiedere, Robè, per caso tu hai mai parlato con questo Enrico, che penso sia un radioamatore, che trasmette da Trinità d'Agulto, l'Isola Rossa, quella zona lì? Con Enrico no, c'è qualcuno che ha parlato di Trinità d'Agulto, però Enrico no, non mi risulta. Aspetta, chi è che non è sardo, quello lì è di fuori, mi sembra che sia di Luca, è un radioamatore, adesso non mi ricordo il nome in attivo, doveva venire a Trinità d'Agulto, mi ha detto, l'ho sentito la settimana scorsa, e lui va a Trinità d'Agulto, mi ha detto che c'è anche un altro radioamatore, ho capito chi sia, gli devo mandare la QSL, perché mi ha detto di mandargliela, si chiama, adesso non lo ricordo il nome in attivo, dovrei guardarmi nel buco di telefono, sì, ho capito chi è, però non è sardo quello lì, nel senso vive fuori il continente, mi sembra a Lucca o Pistoia, se non sbaglio. Esatto, anche se della Sardegna conosce più di noi, però hai azzeccato la persona, sì, non è sardo, infatti mi ha detto che lui la mattina va sui 30-40 metri, eccetera, che stende delle antenne, c'ha dei dipoli, non so, e praticamente l'ho beccato in banda laterale, e stavamo parlando con Ozieri e con Bonnannaro contemporaneamente in banda laterale, e lui parlava da là, ma qua a Sassari mi arrivava Santiago 9, molto forte, e lo stesso gli ho chiesto il controllo, lui mi ha detto che gli arrivavo bene comunque, intorno a Santiago 8. No, ci siamo fatti una bella chiacchierata l'altro giorno, ed eravamo in VHF, lui stava utilizzando il ponte il più importante ponte che abbiamo in Italia, dalle Alpi Marittime a 2400 metri, c'è una copertura da paura quel ponte, condizioni ideali, altezza e qualità di macchinari, di apparati eccezionali. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, poi discutendo ha detto proviamo ad andare in 40 metri o in 20 metri, adesso mi ricordo, sono andato in 40 o 20 metri, non mi ricordo sinceramente, forse più 40 metri, abbiamo fatto le prove, una bella chiacchierata, guardi, devo scendere in Sardegna a giorni, infatti è sceso. Adesso il nominativo sinceramente non mi viene, però penso che sia lui, perché ha parlato proprio di Trinità d'Agulto, che forse c'è una casetta o qualcosa. Sì, lui praticamente diciamo vive tra Trinità e l'Isola Rossa, mi ha detto così, era in Sardegna, era arrivato da giorni e stava parlando con questo di Bonnannaro, insomma stavano parlando delle zone che aveva visitato, ho visto che era abbastanza esperto del territorio sardo, vuol dire che è qualcuno che ci viene spesso, però da poi ci siamo, gli altri sono andati via, è rimasto con me a chiacchierare una buona mezz'ora. E da come parlava, infatti ho capito, perché gli ho detto guarda, noi solitamente stiamo sul 10 qua a Sassari, però siamo in AM, quindi se ti va qualche volta, se ti va di entrare, bussa, già ti fai sentire comunque, ti daremo il benvenuto se vuoi entrare, capito? Lui mi ha spiegato così, mi stava parlando di antenne, mi ha chiesto che antenna avevo io, che era strano che arrivasse sin lì, eccetera. Guarda, ho detto io sto uscendo, ho messo un piccolo aiutino, ma ho detto no, non sto andando più di 20 watt, e poi ho provato, ho tolto tutto e comunque mi sentiva lo stesso, magari scendevo un po' di segnale, ma mi sentiva lo stesso. Abbiamo provato anche in FM, in banda laterale, uguale, però avevo intuito che fosse un radioamatore, ma io ovviamente non gli ho chiesto nominativo, no, si è fatto conoscere così come Enrico, e dice che loro spesso parlano in banda laterale con gli amici diciamo di quella zona delle Meilogulo, Godoro, insomma, e Orsieri. Sì, no, cavolo, io sinceramente non ci ho mai parlato con Trinità d'Agulto, con Vidalba mi è capitato di parlarci tempo fa, qualche anno fa, ma Trinità d'Agulto forse non c'era nessuno. A Trinità comunque c'è coso, Massimiliano, l'aviatore molto molto bravo, soprattutto in campo elettronico. elettronico, un mostro, vedi i lavori che fa, è una persona veramente in gamba, squisita, piacevole da parlarci, però un radioamatore manda cose, non ci siamo mai sentiti, veramente è una persona veramente in gamba, perché questo Enrico mi è piaciuto, non è un ragazzino comunque, mi sembra che ha 68 anni se non sbaglio. Ma è entrato? Sì, no, quello l'ho capito, cioè da come parlava, eccetera, persona che abbastanza accolta, perché ho visto che variava, sapeva di tutto, insomma, anche parecchia geografia sapeva. E poi ho visto che era anche ferrato in materia di antenne, perché quando gli ho parlato della J-Pol sapeva com'era fatta, insomma, mi ha chiesto più o meno com'erano le dimensioni, eccetera. E ha detto che era interessante come tipo di antenna, insomma, che avrebbe voluto provarla per vedere. Un attimo, Franco. Mi ha chiesto infatti se la spaziatura, ho detto sì, questa la puoi tarare, ho detto e puoi usarla per 10, 11 e insomma e 12 metri se vuoi, però la devi tarare. E mi ha chiesto infatti se c'era un tipo uno stub di taratura, eccetera, e gli ho detto sì c'è, però ovviamente è da sistemare. Tutto qui, vai Roberto. Ma sai che è arrivato Franco, avanti Franco. Ecco, sono rientrato. Ho capito il discorso perché stavate parlando del radioamatore. No, di questo Enrico, una persona veramente in gamba, l'ho sentita io, infatti è la stessa persona, dalla descrizione al 99,9% è lui, dalla zona in Toscana, non so, mi ricordo se è di Lucca o di Pistoia, quelle zone lì comunque, che poi è venuto in vacanza qua, ci siamo sentiti su altre bande, l'altro giorno ci sono sentiti con Carlo. Complimenti, se sei riuscito a attivare in 27 Trinità non è così facile, Carlo. Sì, io ci arrivo tranquillamente da qua. Anche l'altra volta ho sentito uno da Valle d'Oria, insomma, quando non ci sono troppi disturbi riesco anche a tirar fuori qualche segnale basso da quelle zone là. Poi arrivo sino a Ozieri, insomma, ho parlato con Bonnannaro e poi pian piano vediamo, dai. Già l'ho sistemata bene qua l'antenna, pare che da quando l'ho messa stia andando bene. Stamattina su questo canale in AM ho parlato con Malaga. Sì, sì, diciamo anche senza propagazione, l'altro giorno c'era tutta la bassa Italia, ma quando è troppo ampia la propagazione si sovrappongono, è meglio quando è più stretto, lo skip nel senso che ti copre un settore diciamo più ristretto, dai, perché quando ce n'è è troppo largo sono uno sopra l'altro, non è cavi i piedi. No, bello, bello, complimenti. Però ho detto sempre, la stazione tua, secondo me attualmente è la numero uno. Prima c'era Claudio, adesso si è passato tutto, ore di controllo, c'hai delle aperture spettacolari, ma sono accorto poi dal segnale tuo come arrivano. Veramente, veramente forte, il più forte che mi arriva nelle mie coordinate. Poi Muros lo stesso, lì c'eravate più forte di tutti, insieme a Claudio eravate più forti, poi il terzo ero io. Va bene, è un piacere quando vedi stazione che lavorano solo l'antenna. Io lo stesso con due pezzi di filo nelle bande radioamatoriali mi faccio sentire molto meglio di altri che hanno antenne super performanti o potenze chissà da che cosa, eppure mi danno sempre la putti, dice questo di Genova che ci sentiamo tutti i giorni, mi dice non è possibile che tu arrivi sempre così forte, Torino e coso, con un pezzo di filo. Poi quando ieri ho messo la filare, ho messo il dipolo in orizzontale, silenzio assoluto, cioè nessun QRM, segnali di uno li ricevevo puliti, perfetti, 5, mentre questo in verticale la Mantova lavora bene ma ti porta un sacco di mondetta, minimo c'è il Santiago 6 di QRM, minimo quando non sono 7, i segnali sono tutti forti, però sono sempre il QRM molto molto alto. Ok, di nuovo a te Franco. Capo, sì, quello è vero, è tutto diverso dalle antenne che usi tu a queste qua. Poi volevo capire in quale canale lo becchi questo di Trinità da Ulto, questi che parlano loro, in quale canale parlano, Carlo? Aspetta che mi sono segnato anche la frequenza, 27565 in SSB erano, io li ho beccati là girando così sui canali. Canale 46 dovrebbe essere. Qua me l'ha detto di nuovo. 27 565 in banda laterale SSB. Dovrebbe essere il canale 46, vicino al 45 dove vanno i canali del camion, quello è per i DX. Ci va spesso Claudio di Muros, lui è molto appassionato di DX, ogni tanto mette qualche video e ci fa dei bei collegamenti. Sì, sì, qua fanno, allora, adesso ho capito, qua fanno i cosi, a 555 chiamano e poi si spostano, questo magari si è spostato da lì. Sì, sicuramente hanno fatto così perché erano in tre, era una piccola ruota, era uno di Ozieri, uno di Bonnannaro e questo di Trinità, poi mi sono aggiunto io, capito? Ma quello di Ozieri era Pio Pio, mentre invece l'amico di Bonnannaro, Fabio, un ex carabiniere, mi ha detto che stava trasmettendo da un circolo dove hanno la radio, il pianoforte, dice si ritrovano là, eccetera. Siamo rimasti un bel po' a chiacchierare e sicuramente, come ha detto Roberto, io purtroppo i canali non li uso perché qua c'ho la frequenza, se metto versione canale non mi fa andare oltre il 40, capito? Invece se lo metto in modalità frequenza allora vado oltre. Ma con che radio stai uscendo, Carlo? Sempre il 5008 Albrecht. Ma hai cambiato microfono, ti sento un pochettino diverso dal solito, un pochettino compresso. Non lo so, magari ha preso qualche colpo, può essere. Ma che microfono sta utilizzando? Il suo originale o è cambiato con qualcosa di amplificato? No, sempre il suo originale. Aspetta, forse ho toccato il mic gain qua e l'ho sollevato un pochettino, allora lo riabbasso. Adesso non lo so, aspetta, dopo lo riabbasso, perché non mi ricordo neanche come l'ho regolato, perché questa è un po' particolare come radio, devo prendere le istruzioni, non me lo ricordo neanche come ho fatto, però era a 8 e l'ho portato a 9 e può essere quello, sì, lo riporterò a 8 allora. Ma questa è sempre la radio che da quando sei partito qua su questo, con questa, diciamo, questo canale, c'è sempre la stessa radio e lo stesso microfono? Sì, esatto. Adesso va meglio, è abbassato molto, perché mi sentivo un pochettino carente di cose, di tonalità, è troppo caricato di medio e di acuti, però pochi bassi. Sì, può darsi come ho toccato quelle regolazioni, le ho portate al massimo e invece le devo abbassare un pochettino, dopo le regolo. No, adesso già va bene. Mentre Franco, tu il solito? No, ho cambiato totalmente genere, ho cambiato. Il solito ce l'ho sempre fermo qua, l'ho spento per un po' di giorni e sto usando questo qua. Sto usando un Galaxy Saturno e come microfono uscire da tavolo. Non ho capito, sta usando per radio Alan? No, il Galaxy Saturno Saturno Echo. Ah, bella modulazione, veramente bella, pulita e chiara. Puoi spingere ancora di più o sei al massimo? No, sono al massimo di coso. Anzi, è già troppo che funziona, che esca così. Il microfono, ti ho detto, è lo Shure da tavolo. Ma al massimo di microfono, io sto parlando di potenza. No, di potenza sto uscendo intorno ai 15-20 watt di radio. Comunque se S9 lo superi pure con i picchi, e quanto puoi arrivare? Ma c'hai la soffietta vicino. Allora, adesso me ne sto dando 100 puliti, me ne sto dando adesso, com'è da te? 9 più 10, sei salito da 9 a 9 più 10. Capo, ho acceso 747, mi stavano 100 puliti. No, poi non si sporca neanche la modulazione, è uguale, bella. Poco fa mentre Carlo saturava, tendeva a strappare, sta uscendo veramente bene, molto pulita. E il rapporto, dammi anche a me un rapporto con quello, con l'apparecchio. Guarda, con questa radio io un rapporto non è che te lo posso dare, perché lo smitter non è avaro, molto avaro. Tu mi stai arrivando con un segnale di 5 qua, però di sicuro non sei 5, sei intorno a 8-9. E mentre Carlo, che forse è più aperto di me. Carlo, vieni avanti. Guarda se mi senti bene adesso, Fra. Anche tu mi stai arrivando 5, mi stai arrivando. Però arrivate di più, arrivate. C'ho lo smitter avaro. Non ti posso dare un segnale giusto, là. Comunque le radio sono entrambi 5, eh? Sì, sì, le radio sono entrambi 5, vi ascolto benissimo. Non portiamo QRM appresso. No, va bene, va bene. Figurati Carlo, se attacca cosa succede? Finimondo, guarda così se mi senti più pulito. Dici a me Carlo? Sì, l'ho abbassato un pochettino adesso il guadagno del microfono. Carlo, così è l'ideale, perfetta, pulita, senza imperfezioni, salottiera, senza nulla da eccepire, come ti ho sempre ascoltato. Allora era quello, avevo sollevato praticamente al massimo il mic gain che c'è qua, evidentemente già funziona, però distorce troppo, capito? Adesso non sto usando niente. Prova ad attaccare, vedi se ti mangia qualcosa. Ecco, adesso aspetta che abbasso, però così è troppo, aspetta, così sono 40. Sì, è molto meglio di prima. Ho capito, sì, forse è troppo. Guarda così che magari sono a 10. No, già va bene così. E toglie tutto, stacca tutto. Ecco, adesso ho staccato tutto e sto andando coi watt suoi. No, molto meglio così. Il problema del transistor è quello lì, che non ti... è molto difficile trovare un giusto abbinamento, a parte non c'è un amplificatore di un certo pregio, ma quelli costano un sacco di soldi. Questi economici della serie ZG hanno tanti problemini perché sono troppo tirati, i transistor per avere qualche watt in più cercano di tirarli un po' troppo il collo, per cui tendono a saturare. Vari pilotati con pochi watt e sfruttati al 50% funzionano molto meglio, per cui è sempre meglio avere le valvole, se c'è un bel amplificatore a valvole no, non ce n'è per nessuno. Lo so che quello sarebbe l'ideale, certo. Sì, no, ma io questo 747 l'avevo preso per metterlo in macchina, poi l'ho sistemato qua e lo sto usando qua, perché già andavo bene così com'ero, ma infatti prima o poi lo metterò in macchina, perché là, diciamo, finché rimango a Sassari nelle vicinanze vado bene, poi oltre se non hai un piccolo aiuto con la radio piccola in macchina non vai lontano, capito? Sì, confermo, infatti non te ne fa niente. Io non ne ho mai usato amplificatori qua nella mia stazione, mai, adesso ne ho uno grosso da 800 watt per gli altri tipi di attività, non ho neanche accesso, ci credi, neanche messo il funzionale, tantomeno nella banda della 27. Quando c'è una buona antenna, una buona posizione, te ne freghi altamente di tutto, e va più che bene. Io sono contrario agli amplificatori, chi conta è l'antenna, il 90% della prestazione trova l'antenna, il resto l'amplificatore magari ti dà qualcosina di più, però se c'è una buona posizione, una buona antenna abbinata a un buon apparato fa più che bene tutto. Io a te Franco. Sì, ma c'hai ragione, vabbè, perché guarda, io ti dico una cosa, io d'inverno non ho mai usato un amplificatore, io amplificatori ne ho, ho due valvolari da due BV131, e ti dico che funzionano allo stesso livello di questo che sto usando adesso, funziona, e sono nuovi. E infatti ho deciso di agganciarne uno, perché con l'amplificatore valvolare è sempre molto meglio anche la modulazione. E io lo uso solo d'estate perché c'è troppo casino, per ascoltarci, perché d'inverno non c'è bisogno, perché noi, io per dire, con Sassari, io è come che sia a Sassari, perché arrivo benissimo a Sassari, c'è una buona posizione, ed è per quello che io gli amplificatori non li uso mai d'inverno, capito? Avanti a te, Robert. Però purtroppo non sono tutti che ragionano così. C'è qualcuno che chiama, avanti qua su 10. Chi sei? Allora qua siamo da Sassari, Roberto e Carlo e Franco. Non ho capito il tuo nome e da dove, il tuo QTH, da dove stai modulando. Avanti, ti sto perdendo, non ti capisco più. Vai tu Carlo, l'hai sentito? Ho sentito quando tu hai detto avanti, ho abbassato lo squelch perché ce l'avevo alto, ma non... l'ho sentito un attimo, adesso non sento più niente. Era uno spagnolo che stava salutando, poi è sparito. Non mi sembra spagnolo, mi sembrava italiano dal discorso che stava facendo. Guardate, compagno, si scucci l'Italia che va chiamando. Sì, è spagnolo. Roberto, Cutina Cassazza di Sardegna Island, QSL. Sì, Santiago Otto, radio mucho buona. Ok, Carlo, a te. Lo sento pio qua, però va e viene il suo segnale. E adesso questo passaggio non l'ho sentito. Guardate, compagno, adesso l'ho perso. È arrivato 8 poco fa, quell'ultimo passaggio che ha fatto si sentiva bene. Ok, tu Franco l'hai ascoltato? Sì, un pezzo l'ho ascoltato, poi è sparito, un segnale di 3, poi è sparito e non l'ho più sentito. Ciappa. Ok, beh signori, io vi devo lasciare, tra l'altro c'è anche un po' di caldo dentro questa stanza, con tutte le radio accese ci sono 27,3 gradi, è un rombo di caldo dentro alla Sassaresa. Vi saluto, grazie del consiglio, grazie Franco, grazie Carlo, saluto anche gli eventuali qua amici SWL, io faccio QRT, ciao, ci sentiamo presto, ciao Roberto, ci sentiamo prossimamente, ciao, grazie della piccola chiacchierata, vai Franco. Ciao Roberto, mi ha fatto piacere di ascoltarti dopo tanto e grazie della chiacchierata. Ciao, buon proseguo, buonanotte e buon tutto. Allora Carlo. Eccoci qua di nuovo, io adesso sono scollegato completamente perché scaldano pure questi 747, fra, non so, il mio se lo lascio attaccato diventa, non ci puoi appoggiare neanche la mano sopra. Guarda che poco fa non stavo prendendo a spostarlo e mi ha bruciato. E lo so, scaldano micidiale, io lo stesso, la settimana scorsa per caso ho appoggiato il braccio e mi ha bruciato. Ma domani faccio un'altra cosa io, gli appoggio qua a fianco il BV131 e vado a valvolare, tanto mi danno stesse volte, mi danno. Sì, però ti dà meno problemi di riscaldamento quello, dai. Qua io avevo anche sistemato una ventola in parallelo e potevo anche, avevo organizzato anche un pulsante, accendere, spegnere, però mi buttava poi tutta l'aria calda da dentro a fuori, mi arrivava in faccia, allora ho detto no, non è cosa, lo lascio, lo accendo con parsimonia per quello, solo quando è necessario, se no vado senza. Capo, c'ho un BV131 che l'ha comprato nel 2000, l'ha provato una volta, l'ha provato, l'ha staccato, l'ha messo nella scatola e non l'ha più usato. E ce l'ho io, ce l'ho. Me l'ha dato direttamente dentro la scatola, ma bello, nuovo. Quello lo vuoi far fuori, Fra? No, me li tengo quelli. Ne ho due adesso, ne ho. Uno me l'avevo comprato io e adesso c'ho quello e in più c'ho questo qua, il 747. Diciamo che anch'io questo 747 l'avevo preso perché ero intenzionato a metterlo in macchina, poi la curiosità e così la voglia di sperimentare, l'ho messo qua a casa e l'ho sistemato talmente bene che ho detto non lo tocco adesso da qua, lo lascio qua per fare qualche VX magari che mi può servire, e in macchina vuol dire che già troverò qualche altra sistemazione. Capo, no, io non li voglio dare perché a parte che non te li pagano neanche, non te li pagano, perché io li ho visti questi usati quando li stanno vendendo, sono troppo esagerati, 100 euro li stanno dando, però mi sembra un po' esagerato, mi sembra, 100 euro BV 131, però ognuno vende come vuole. Questo che ho preso io lo stesso, usato, ma se lo vedi è nuovo, tramite Luca, era un suo amico che stava disfando tutto e mi ha detto guarda che ce l'ha lui un 747, ti do il contatto, provi a chiamarlo e l'avevo preso per pochi 10 euro diciamo di roba, da una 20, 25 mi sa, poca roba. Capo, no, ma io non li ho così, non me ne fa, a parte che non li voglio dare, che non mi interessa di dare quelle. E poi infatti avevo intenzione di prendermi il coso, il B300, avevo intenzione per lasciarlo qua, almeno quello esce con un po' di fatti. Beh sì, infatti io ho preso adesso una radio che era di Gianni e la vorrei mettere a posto perché non usciva più di potenza, capito? Adesso vedo, ho trovato uno che mi hanno detto che è bravo e gliela dovrei portare, devo trovare un attimo per portargliela e vedo un po' se riesco a metterla a posto, poi nel caso la userò qua, è un Galaxy Turbo, non Turbo, un Galaxy Saturn, ecco. Sì, è uguale a quella che ho io, che sto modulando io adesso, è uguale identica. Allora già la conosci. Con quanti watt esce la tua, Fra? Allora, originalmente dalla casa esce 8 watt, 7-8 watt. E io oggi, stamattina, ho aperto, siccome c'è lo schema, mi hanno passato.